La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Per essere un borderline ho fatto miracoli, d'eleganza ed ironia, ma ugualmente è venuto il giorno in cui per la tua vita sono diventato un mostro. Comincio da questa poesia perché è bella e perché dentro c'è una parola cara all'autore e ai suoi lettori, una parola chiave, mostro. Quando leggete un libro di Michele Mari, prima o poi la mano pelosa del mostro vi si poggerà sulla spalla. E che si tratti di Giacomo Leopardi e del segreto fra lui e la luna, oppure di Walter Benjamin alla ricerca dell'aura perduta, sarà molto difficile non essere dalla sua parte. Oggi vi presentiamo Di bestia in bestia, l'ultimo libro di Michele Mari, anzi il primo, perché lo scrisse quando non aveva 25 anni, era uscito con Longanesi nel 1989 e adesso Einaudi lo ripubblica in una nuova versione. Ma come avverte l'autore nella postfazione, Michele Mari non lo ha riscritto, ha solo tratto da esso la forma che c'era già. E leggo dal risvolto di copertina: riguardando questi materiali vedo che quasi tutte le correzioni sono a togliere. Questo vuol dire che l'attuale versione, in ogni suo tratto di lingua e di stile, era già tutta nella primissima. Anche per questo, Di bestia in bestia è il libro della mia vita. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. La guardiana del faro. Oggi apriamo insieme Di bestia in bestia, il libro di Michele Mari appena uscito da Einaudi, con questo titolo darwiniano commoto come il galoppo di un cavallo dondolo. Ve lo proponiamo coi rumori, come in una recita fatta in casa. Mi ricordo mio fratello si metteva sotto un tavolo con un drappo sopra, era specializzato nello sciabordio delle onde e nello strangolare una persona. Ci sono libri per cui dividi la tua vita fra prima di averli letti e dopo, e Di bestia in bestia diventa la chiave di interpretazione di un reale che non potremo più chiamare tale. Il libro comincia così: partimmo la volta di Djevtsarka col cuore leggero. È un inizio ingannevole, prologo di un'avventura fosca e turbinosa, piena di insidie e di metamorfosi, dove ogni mistero ne nasconde un altro più arcano. E neve, neve, una neve gelata e violenta. Ed è notte, ed è buio, in queste montagne piene di massi erratici e di rocce ghiacciate. Chi sono quei tre viaggiatori che vanno su un carro traballante tirato da un cavallo accecato dalla neve, una smunta alfana biondastra, mentre il postiglione canta canzonacce in una lingua barbara? Sono due uomini e una donna. Il narratore e il professor Pesumai, due scienziati, e la signorina Ebe Blakey, segretaria e interprete. Dopo 3 anni di isolamento in laboratorio, sono capitati in quella regione sperduta per riferire a un congresso scientifico la importantissima scoperta fatta durante il ritiro. Il viaggio fu malagevole, riferisce il narratore. Prima in treno, poi in battello, a nord, sempre più a nord, risalendo i fiumi, passando per città dai nomi sempre più sassosi e alieni, Eoreca, Achecoe, strade sbarrate dalle valanghe, e poi la cremagliera, il treno dentato che si aggrappa alle rotaie di montagna per non precipitare. Più oltre, la vettura postale sarà una diligenza. Viaggiando andiamo indietro, sempre più lontano, in un altro tempo, in un luogo che non c'è. Nella letteratura di Michele Mari. e finalmente arrivammo, ma non ad Eftarka. Nel loro fortunoso viaggio, per un errore di scrittura, li hanno condotti ad Eftzeira, perché nei libri di Mari quattro lettere fanno ruotare il mondo. E i primordiali abitanti, che solo la signorina capisce, dicono: ma di Eftarka non esiste. La signorina dice subito: andiamo a casa, torniamo indietro. Ma gli altri due a tutti i costi vogliono andare al congresso per rivelare la scoperta, che poi presto dimenticheranno nel corso degli avvenimenti che li aspettano. E finalmente, come nelle fiabe, un lumicino lontano lontano, nella cortina di neve si profila un castello fra le rocce e, per quanto sinistro, la salvezza, bussano come nei film di vampiri. Agimmo affranti sul martello di bronzo del portone e dopo una ragionevole attesa si aprì una porticina. Se si aspettava un servo nano e gibboso, Pesumai rimase senza dubbio deluso. Infatti davanti a loro c'è un bel signore, un gentiluomo, bello, urbano, cortese. Non c'è nessun Igor. Anzi, Osmok è veramente un grande ospite. Li conforta col camino acceso, cibi, conversazione. Però toglie loro ogni illusione sulla possibilità di arrivare in tempo al congresso. Ci vorrebbero 7 giorni di mulo muschiato del basso Apolefzeso. E con quel tempo morte sicura. E quindi eccoli costretti a fermarsi. E intanto un suono sta nascendo. Osmok dice: tacete, ecco, sentite? È da lui che dipende, non d'altro. E la sua voce cresce così lentamente dal nulla. È il tarasso, il leggendario vento del nord, dotato di incredibile forza distruggitrice, surge improvviso da monti, in prima gentile, poscia gagliardo e finalmente ruinoso. E favoleggia Osmok di alberi abbattuti, di un becco legato a un pero, e vengono trascinati via entrambi. Ed entra in scena il factotum di Osmok, il gigante epeo, che è leggerissimo nelle movenze, ma molto temibile nel fisico, al quale faticosamente Osmok sta insegnando la lingua, anche se la pronuncia in maniera molto strana. E il narratore guarda con simpatia quest'uomo che racconta e che è chiaramente commosso da questo arrivo imprevisto. E lui ha la sensazione che Osmok fosse sul punto di schiuderci, dopo le porte della sua dimora, anche quelle della sua anima. Mi diede l'impressione di un uomo tremendamente solo e bisognoso di aprirsi o riaprirsi agli affetti. E il fatto che tutto in lui, la signorilità, il garbo, il distacco, cercasse di negare questo bisogno. Un uomo solo fra i ghiacci. Un sentimento di ammirazione anche. Eppure sentivo di non desiderare affatto la sua intimità, di temerla anzi, come avessi paura di contrarne un impegno scabroso. Osmok è molto colpito dalla signorina Ebe Blakey e questo turba il narratore perché anche lui la trova bella. Quando ecco, gli ospiti rimangono impietriti, ma Osmok è tranquillo e dice: è solo il vento, come nel Re degli Ontani il padre dice al bambino. È il tarasso, il cui nome significa colui che non si lascia amare. Ma fin dalla prima notte quello che è apparso un rifugio comincia a sembrare un luogo molto minaccioso. Il professor Pesumai nota che c'è luce nella torre e quindi dice agli altri: guardate che Osmok ci sta mentendo, ci sta nascondendo qualcosa, c'è qualcun altro oltre noi, e fa vedere appunto questa luce accesa nella torre. Però insieme ai segni inquietanti c'è anche una grande seduzione. Il narratore rimane in estasi davanti alla biblioteca perfetta di Osmok. Una biblioteca sterminata con 3 ordini di libri e tutti visibili e tutti schedati, l'uno inscritto mirabilmente nell'altro e a sua volta comprensivo del terzo, sì da far vaso a quel che prima era capito, e miracol, vedi tonda la trigono forma. E c'è il discorso di Osmok sulla biblioteca che sembra come un flash nell'anima dello scrittore. Nel raggio di 400 chilometri non c'è anima che sappia apprezzarne il valore. Sono contento di trovare spiriti fraterni. È triste, sapete, non poter partecipare ad alcuno il bene che si tiene più caro. E poi qui, tutti quelli che hanno una bella biblioteca, ciò che pensano degli eredi e di tutti quelli che hanno intorno. Quei bruti adopereranno i miei libri per accendersi il fuoco e per rivestire l'interno delle loro sudice stalle. Fuori la neve turbinava guizzando sotto il fiato veemente del vento. C'era qualcosa di inquietante in quella neve, matrice di buio, matrice d'altro che il bianco. La neve è essa stessa un personaggio avvolgente che non si ferma mai. È una sorda aggressione continua. Minacce fuori, minacce dentro. Signorina Ebe Blakey nota il ritratto di una donna molto bella e Osmok racconta che era la moglie amatissima che è morta. E la cosa impressionante è che lei somiglia alla signorina, anzi è identica. Tra l'altro la bellezza di questa ragazza ci viene rivelata poco a poco e poi cresce per piccoli dettagli in tutto il libro e solo questo sapremo di lei, perché come ogni dama ideale la signorina Ebe Blakey non ha carattere. I like to be here. Osmok racconta di come ha incontrato Emilia, sua moglie. Ha sentito parlare per la prima volta di lei dal padre. La descrisse come un mostro di superbia e di alterigia, sdegnosa di tutto e di tutti. Ma fra poco compirà 30 anni e quando la sua bellezza sarà sfiorita, insomma, si preoccupa della figlia e in qualche modo vuol farlo innamorare ed è una cosa abbastanza facile, perché lui, che è un cultore della lirica provenzale e che è, come Alfieri, pieghevolissimo agli avvisi amorosi, nella sua infatuazione letteraria il mio spirito non solo era particolarmente accessibile alla suggestione che poteva venirgli dal fantasticamento di una Madonna altera e disdegnosa, mi attirava di lei proprio ciò che angustiava suo padre e scoraggiava gli altri. E poi invece, conoscendola, scopre che Emilia era invece la creatura più dolce di questa terra. In lei spensi la mia aridità come si spegne la sete al buon fonte. Il mio faticoso contegno, le mie vanità, tutti i miei compiacimenti furono in lei. In lei mi sapevo. E sentivo che non solo, come avevo dianzi pensato, l'amore non contrastava allo studio, ma che ne era all'opposto sprone e alimento. Sì, sì, amore aveva rivelato Psiche se stessa, e Psiche non si era bruciata le ali. Avevo trovato Madonna. Ero, se mai ve ne fu, un provenzale appagato. Osmok è lo stil novista perfetto, ha un bel dolore granitico, netto, unico, e fra gli acci si gode il suo rimpianto e la sua vedovanza. Il narratore sente uno scalpiccio fuori dalla porta e la signorina piomba in camera sua, sconvolta, mezzo vestita, perché qualcuno è entrato nella sua stanza, lasciando tracce di neve, però la porta era chiusa, quindi com'è entrato? Dalla finestra, soltanto una scimmia o uno scimmione, e il pensiero va a King Kong con nostalgia romanzesca. Mentre loro fanno tutte le loro ipotesi, la ragazza e il narratore, il professor Pesumai cerca la soluzione nei libri più che nei fatti e legge ai suoi compagni da un antico testo. In principio era la bestia. Infatti, poiché non c'era altro che la bestia, tutto era bestia, e la bestia consisteva in se stessa. Oh, adesso succede qualcosa di molto sconveniente da parte degli ospiti, perché loro cominciano a mettere sotto accusa Osmok, che li ha accolti con tanta liberalità, e Pesumai poi è insopportabile e si comporta più da ispettore che da ospite. Ogni sua domanda è una trappola. A cena chiede a Osmok: così, oltre a Depeo e a qualche occasionale pellegrino come noi, non c'è proprio nessuno a farvi compagnia in questo posto terribile? Insomma, lo stanno mettendo sotto tortura. Osmok non risponde e lui continua: qualche animale domestico però potreste tenerlo, finché dice magari uno scimmione. E lì Osmok dice: ma scusi, ma cosa sta dicendo? E Pesumai insinuante: e perché no? Dopotutto gli scimmioni possono far compagnia come qualsiasi altro animale. E racconta una storia terribile di questo scimmione che è venuto con una nave e poi ha trucidato due donne. E Osmok, spiritosissimo: siamo assolutamente dalla sua parte. Vi ho visti più vivaci questa sera. Dice: vedo che cominciate ad ambientarvi. Far away, across the field, tolling on the iron bell, calls the faithful to their knees, hear the softly spoken magic spell. La guardiana del faro. Stavamo parlando del libro di Michele Mari, di Bestia in Bestia, pubblicato da Einaudi. Tre viaggiatori nella notte, in un castello pieno di misteri. Uno dei fatti inquietanti è la maleducazione dei tre ospiti i quali sottopongono il loro ospite, l'amabile letterato Osmok, agli interrogatori più imbarazzanti. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you. Dopo la cena, che in verità è stato uno dei più serrati interrogatori degli ospiti al loro ospite, il narratore ha un incubo. Sta precipitando abbracciato a Osmok a testa in giù per un cunicolo, e durante la caduta Osmok si trasforma in un gorilla ghignante, e nel sogno il narratore grida, e svegliandosi il suo urlo sognato si trasforma in un urlo di donna, ma vero. È la signorina Beblè che il narratore corre da lei, non vede l'ora d'altronde, e c'è qualcuno che sta picchiando con forza alla finestra. Ma com'è possibile a un'altezza di 100 metri? Non senza timore, ma eroicamente, perché vuole salvare la signorina, il narratore apre la finestra e fuori, legato al davanzale, con un nastro rosso, e vedemmo. Ma tali erano le sembianze mostruose che ognuno di noi si era in cor suo preparato a fronteggiare, che a tutta prima non riuscimmo a decifrare quell'immagine. Al di là dei vetri ci aspettavamo di vedere il crudelissimo Ravis, alla cui voce anche il terror dello Yeti fugge tremebondo fra ghiacci, oppure Locmu, lo sceno uomo lupo dall'enorme membro retrattile, o il grande coniglio cieco. Nulla di tutto questo. Non che si trattasse di creatura men degna. Tetramente illuminata dalla debole luce aurorale, era soltanto una bestia, un pipistrello. Ma, oh, che pipistrello! Mirabile visu, aveva le dimensioni di un grosso tacchino, e la cosa più impressionante ne era il colore bianchissimo, di un bianco che si confondeva con la neve stessa. L'immensa creatura, e con gli occhi rossi di un rosso di bragia brillante. E poi descrive le ali. Gigantesche, membranose, semitrasparenti, uncinate ali d'arpia. Osmok lo spiega con un gesto ostile degli autoctoni. Dice no, è un gesto di inimicizia, e si perde in un labirinto di citazioni dotte, perché, ecco, il personaggio di Osmok è meno un uomo che una bibliografia incarnata. Osmok sfugge alla sostanza attraverso la parola scritta. Uno scudo invulnerabile lo protegge dalla vita. Osmok è diversione e chiacchiera infinita, e una biblioteca di Babele che non intende se stessa. E qui si potrebbe aprire un capitolo sulle citazioni modificate, mezzo vere e mezzo inventate, con cui l'autore si prende gioco di Osmok e di noi, e ci si diverte a seconda del grado di cultura. Io afferro circa un 90° dei giochi del testo, però qualche risata me la sono fatta. Per esempio, quando dice Frisinga Belwa Ludens. Le gallerie di cui scopriremo essere scavato tutto il castello sono una metafora della letteratura marina. Se ne apre sempre un'altra nella quale sprofondi. E se i libri di questo autore tanto ingrandiscono la mia percezione della lingua e del fantastico, ma cosa mai faranno a chi tutto sa, a chi tutto intende? Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Intanto, nella sua indagine, il professor Pesuma scopre che Osmok ha mentito sul pipistrello. Non è un segno di guerra, al contrario. Si lega col nastro rosso un pipistrello albino come domanda d'amore all'amata. Se la donna lo rifiuta, il pretendente si recide la vena grossa del collo, oppure uccide colei che non sarà sua moglie. Comunque, qualcuno deve morire. E a questo punto il narratore crede di aver capito tutto, è sicuro di tenere il coniglio per le orecchie. Ecco la soluzione, l'innamorato è Osmok. Ogni indizio porta a lui. Adesso che Osmok sta diventando suo rivale, il narratore è sempre più torvamente innamorato della signorina Beblekei e sempre più sta in guardia. Il narratore è in biblioteca con Osmok. Osmok si assenta e dopo qualche minuto un altro grido viene dalla torre. È sempre lei. Queste grida della signorina Beblekei sono il motivo musicale dell'opera. Il narratore vola a soccorrerla. Arriva alla torre e trova il professor Pesumai a terra, ferito. Erano andati, Pesumai e la signorina, a investigare, sempre contro il padrone di casa. Qualcuno lo ha aggredito nel buio e lo ha ferito. E non hanno visto chi. In quella arriva Osmok. Accampa delle scuse incredibili e tutti i sospetti si addensano su di lui. Anche Epeo è stato aggredito. È tutto insanguinato, ha 5 vistosi graffi sul collo. E Osmok dice, ma sì, è stato il pipistrello. Eh no, il pipistrello no. I suoi giudici sogghignano. Ma cosa ci va contando? Non ha mica il pollice opponibile, il pipistrello. Qui c'è qualcosa sotto. E nonostante la pedanteria terminale di Osmok, è molto sospetta la scenata grammaticale che fa al suo servitore ferito, che non è ancora molto padrone della lingua. Ecco la conversazione. Epeo! Zizignurra! Tutto bene? Zizignurra! E quel sangue? Lu! Zdato Lu! Quante volte ti ho detto e ridetto? Lui maschile, esso neutro. Il pipistrello è un animale, quindi pipistrello neutro. Comunque, qualsiasi cosa accada ormai, il narratore ha condannato il padrone di casa e ha la prova irrefragabile, e la prende da un altro luogo del sogno, il cinema. Anzi, dal sogno di Freud, il visionario, filtrata attraverso Hitchcock, il visionario, e riferita dal visionario Michele Mari. Secondo il narratore, la trama di Psycho spiega tutto. Un uomo non è mai stato insieme a una donna. Incapace di staccarsi dall'immagine della madre defunta, in ogni donna il suo inconscio gli propone la madre. Un giorno gli capita di veder nuda una giovine donna. È la visione di un attimo, ma gli basta per restarne sconvolto. Crede di impazzire e inorridisce, ma intanto ha desiderato quella donna. Deve scontare il peccato. La notte chiede perdono alla madre profanata, la invoca, ed ecco che la madre rivive, pronta a fare giustizia, a punire l'incestuosa passione nella persona di colei che l'ha suscitata. Si arma di mannaia e massacra la giovine donna. Spuntano dalla sottana fiorami due polpacci pelosi. Sotto la cipria ravvisi una mandibola quadra. Inutili pens, aggrinza la stoffa sulla desolazione del petto. Al mattino non si ricorderà di nulla. Novellamente puro, sinceramente innocente. Credete dunque, senza ombra di dubbio. Ci sono alcune varianti, certo, la moglie invece della madre, ma finalmente è la stessa vicenda. E intanto c'è un altro fatto. Sulla neve immacolata appare una scritta che è molto familiare nei muri della città, ma lassù, sulla neve, arcanamente incongrua. Cos'è questo immenso disegno nella neve? Sgomento. Nell'immacolato pianoro campeggiava superbo il simbolo osceno, lo stigma lubrico di Priapo, immenso, iperbolico, interminabile fallus. Più che turbato, il narratore è esaltato, entusiasta. Quella fantasia fallica sulla neve conferma la sua tesi, la rende certa. Bisogna agire. Il personaggio più fragile nel libro di Michele Mari, il più discutibile e infine comico, è sempre lui, il narratore, che sa ridere di sé in ognuno dei suoi personaggi. Dunque, lui e la signorina, ormai catturata dall'equazione Osmok Anthony Perkins, come nel peggior film giallo, hanno l'idea insensata di catturare l'assassino mettendo come esca la vittima designata. Dato che hanno deciso che si tratta di schizofrenia, bisogna tendere una trappola e costringere la parte lubrica e assassina di Osmok a manifestarsi. L'importante è coglierlo in flagrante, anzi, costringerlo a cogliersi in flagrante da sé. E per questo dovremo lusingarne la bestia a sortire, tentarla, insomma, si esaltano, si divertono in quello che poi è un gioco d'amore tra la ragazza e il narratore, il quale ha vanitosamente riservato a sé il ruolo del salvatore. Quindi il piano è che la signorina andrà alla torre insieme a Osmok, sperando che lui si scateni, mentre il narratore nell'ombra aspetta stringendo un attizzatoio. Bellezza dei libri di Mari, dove mai appare una P-38 o una mitraglietta, ma solo i corpi contundenti dei tempi di Sherlock Holmes. E infatti, a conferma della loro teoria, appena arrivano alla torre, si spegne la luce, Osmok aggredisce la signorina a scopo di libidine, lei strilla, lui riaccende un fiammifero e vede Osmok le era sopra e la schiacciava con tutto il peso del corpo, tristissimo vero, ed incurante dei graffi cercava con immonda prensile bocca di carpirle dal labbro un sigillo d'amore. Gli arrivai sopra senza che se ne accorgesse, ma lui non se ne dà per inteso e vedi che Osmok è Osmok, ma è uno strano Osmok, ha una giacca di fustagno, è molto trascurato, ha degli unghioni neri, finché insomma lo prende a pietrate e quello fugge con la sveltezza di un gatto più giù, sempre più giù, fino a sotterraneo del castello, fino ai dei cunicoli strettissimi. E poi, mentre lui sta tornando su, datosi per vinto, un suono che è ormai così familiare, l'acuto del soprano. La signorina e Bebekei, dalla torre, arrivano i nostri. Lui corre dalla signorina ed ecco apparire Osmok. Di nuovo, educatissimo e vestito con somma decenza e con delle unghie da manicure, non quegli unghioni che aveva poco prima. E finalmente sapremo la verità, per quanto è possibile in questo gioco di sdoppiamenti e di ombre. E qui comincia il libro. Quello che vi abbiamo raccontato finora è soltanto l'ouverture. Come nei giornalini a fumetti che leggevo da piccola, io vi dico adesso, continua al prossimo numero. Gli altri misteri, ma non tutti, del libro di Michele Mari, Di bestia in bestia, ve li racconterò nella Guardiana del Faro della prossima settimana. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Circa la nomina del nuovo ministro dell'integrazione, Cecil Kyenge-Kashetu, la Lega si è scatenata in commenti che tu pensi, ma non si vergognano questi, no. No, si piacciono moltissimo. I leghisti, che hanno più scheletri nell'armadio della cripta dei Cappuccini e, tra l'altro, responsabili di un ritorno di inciviltà con la loro propaganda razzista, invece di stare zitti, ma non ci soffermiamo su questo. Quando la signora Kyenge ha detto in conferenza stampa «Non chiamatemi di colore, sono nera e lo dico con fierezza», mi è tornato in mente il mio primo incontro con Genevieve Macaping, detta Jenny, nata in Camerun. Notte fonda, un albergo di Scalea, in Calabria, e dietro il banco c'è questa ragazza bella, nera, grande, alta il doppio di me, ed è il portiere di notte, che deve essere un mestiere che si attaglia alle scrittrici, perché anche Michela Murgia l'ha fatto e lei teneva il bastone di Piero sotto il banco, invece Jenny sotto il banco teneva i libri di antropologia e lavorava per potersi laureare. E cominciamo a parlare lei, non mi chiamate extracomunitaria, chiamatemi negra, che è meglio. È più poetico, viene dal latino e non dalla lingua disgustosa della tolleranza, che vuol dire persecuzione. Abbiamo parlato spesso di Jenny Alfaro e anche lei è intervenuta. Abbiamo raccontato la sua fuga d'amore dal Camerun, la morte tragica del ragazzo di cui si era innamorato. Jenny si ritrova ragazzina, sola, senza identità, in un paese sconosciuto e non può e non vuole tornare dai suoi. E comincia la sua avventura europea, difficile, ma anche con uno spirito picaresco, coraggio e una certa dose di allegria e una grande fiducia nelle proprie forze, finché dopo aver fatto mille lavori si laurea e per anni è stata docente di antropologia all'Università di Calabria. Poi, grazie alla legge Gelmini, è diventata uno dei tanti disoccupati italiani che fanno qualunque lavoro. Io vorrei sentirla sulla signora Kyenge. Qui Capitaneria di Porto, l'antropologa e giornalista Genevieve Macaping è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. C'è Jenny al telefono? Sì. Ah, ci cara sono Jenny. Io. Ci sono. Senti, ascolta Jenny, parliamo del ministro dell'integrazione, Cecil Kyenge. Kyenge-Kashetu, sì. Sì. È una grande donna, una grande intellettuale, una grande lavoratrice, un grande medico e vorrei sottolineare che la sua laurea è verissima. Non come alcuni, mi riferisco a qualcuno della Lega che forse si era anche comprato il diploma da qualche parte, ma non voglio fare polemica con nessuno, voglio solo dire che si tratta di una persona vera che ha grandissima esperienza, che è un ministro vero, anche se qualche volta ho visto delle battute veramente al vetriolo rispetto a certi lavori che lei ha fatto col cuore quando ha salvato molte persone. Alcuni hanno titolato la solita immigrata che fa del bene. Ma pensate un po' voi in quale paese ci troviamo. Ma. Poi è curioso che in America, dove veramente c'è stato un grandissimo problema razziale, c'è tuttora, perché quando tu porti migliaia di persone schiave è ovvio che poi le vuoi tenere sotto. In Italia, che abbiamo una situazione del tutto diversa, fa scandalo un ministro di origine africana. Ma lasciamo perdere, senti, noi non vogliamo dare pubblicità alle stupidaggini che dice la Lega, però una cosa solo commentacela, la frase di Zaia, te la ricordi forse meglio di me? Sì, ha detto una cosa che veramente mi ha fatto raccaponare la pelle. Durante una trasmissione televisiva, Canale 5, i soliti bambini di questi immigrati che vengono a giocare nei nostri parchi gratuito. Cioè, veramente. Che giocano gratis nei nostri parchi. Giocano gratis nei vostri parchi, nei loro parchi italiani. Io sono italiana. E non può essere che un padre, io non voglio neanche di un politico, perché quell'uomo lì è un padre di famiglia. Spero per lui che i suoi figli non abbiano mai in vita loro a rivedere quella trasmissione, perché si chiederanno che razza mo ci vuole, che razza strana di padre noi abbiamo. Io chiedo per questi signori razzisti, perché di questo si tratta, persone dallo spirito e cuore piccoli, solo pietà, veramente non lo dico con rabbia, la pietà cristiana, per loro io lo chiedo. Ove non dovesse bastare, io sono prontissima, disposta a far loro un corso gratuito di antropologia culturale o dell'antropologia del sentimento, ditelo come vi pare. Io sono pronta a fare questo corso gratuito, anche in diretta televisiva. Questo corso lo vorrei fare proprio un parco giochi per i bambini. Detto questo, veramente Barbara, io ti prego, ritorniamo a parlare di Cecil Kenge Kashetu, ministro dell'integrazione di questo paese, del governo Letta, donna che saprà fare moltissimo, politico che saprà fare moltissimo e professionista che saprà fare molto. Io chiedo, ma non solo io, perché proprio in questo momento che tutta la comunità migranti, io ne cito solo una per dirvi, Increci Rete Donne Migranti d'Italia, nessuno osi toccare Cecil Kenge Kashetu. Piuttosto che gli si dia la possibilità, vogliamo vederla all'opera. Se sarà brava, bene. Se non sarà brava, peggio. Perché sapremo dire, signora, lei non è stata capace di far nulla. Ma io getto tutto il corpo mio sul fuoco, che è una signora che sa fare molto bene. Quali sarebbero, secondo te, le cose più urgenti da fare nel suo ministero? Lei lo ha detto. Chi nasce in Italia è italiano. Lei ha fatto un'affermazione e un suo pensiero politico. C'è un Parlamento che lo discuterà e sono certa che il cammino avrà luogo, perché molti migranti aspettano. Ci sono 2 milioni di bambini che aspettano solo questo, 2 milioni per dire quelli nati recentemente, che non vogliono crescere stranieri nel paese dove sono nati e perché sono stranieri nel paese dei loro genitori. Ma che vogliamo fare? Una intera tribù di ragazzi senza radici? Senza terra. Ma veramente di cosa stiamo parlando? Allora, che si lasci Cecil Kenge Kashetu lavorare, perché è capace, non lo dico solo io, ma le persone che collaborano con lei, che da una vita lavorano con lei, ma lo saprà anche molto bene il presidente Letta che l'ha nominata ministro, anzi veramente il presidente della Repubblica su suggerimento di Letta, per chi conosce come funziona in Italia la Costituzione italiana. Ma io sono molto stupita che si stia a fare delle polemiche su di una persona capace, preparata, che arriva delle cose da dire e poi si esprime un italiano meraviglioso, un italiano che mi affascina, come neanche riesco a sentire questo italiano parlare di alcuni signori che stanno lì a dire parole inaccettabili. Non si può, lasciatela lavorare. E tutta la comunità, tutta, non solo migranti, ma di persone per bene d'Italia, stanno sostenendo questa donna, perché molto ha fatto ed è sotto gli occhi di tutti. Detto questo, volete sapere che suo papà aveva pure 4 mogli? E 37 figli? Giusto per dirvi qualche cosa di africano, quasi selvaggio, ecco, così avranno anche altre cose da commentare. Grazie, Jenny. Qui Capitaneria di Porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini, a cura di Gloria Guerrera.